mami, Kalina Marina, trangalai, zavu na studena, daj Kalino, sto cilufki, daj Malino, sto milufki, daj Kalino, sto cilufki, daj Malino, sto milufki. Kalina tihom produma, daj Kalino, sto cilufki, daj Marino, sto milufki, daj Kalino, sto cilufki, daj Marino, sto milufki. Kalino, sto cilufki, daj Marino.